Persson, L.O., Sapi, Jules. È ora di cambiare un po' il gioco. Senti mo, senti mo. You know it. Caccia il mic. Per vincere, stringere le mie chimere, vedere oltre questo fuoco che ci rende cenere. Se la mafia è uguale a Stato, in cosa posso credere? La vita picchia duro, ma io non posso cedere. Pronto a stendere barre come barre per l'infame, da respirare catrame, tritare come un pesce cane. Pensi male, inutile spiegare, non capisci uguale. Se tu viaggi con la nave, io con l'astronave. Incastro trame, in devasto, impasto creme afghane. Castro cane, lascio tagli affilati come lame. Scanso pare, tosto paglie, strozzo dame. Prego stop stronzate, da me non becca uguale. Nato in un mondo freddo da gelo glaciale, dove ardo tracciare una via per scappare. Zero filosofare, voglio essere immortale come Nicolas Flamel con la pietra filosofale. Nella vita so che non devo mollare mai, non mi fermerò e so che tu lo spererai. Quanti guai ci aspettano davanti, sai, pronta a parare al colpi ma scagliare la prima pietra mai. Nella vita so che non devo mollare mai, non mi fermerò e so che tu lo spererai. Quanti guai ci aspettano davanti, sai, pronta a parare al colpi ma scagliare la prima pietra mai. Oggi mi guardo e sono fiero, oggi faccio luce a questo buio sentiero. Oggi sono ancora vero come anni fa, guarda qua, non sono mai cambiato. Sembro più felice, ancora con il cuore abbaccato, ma ho più forza per combattere, vattene, ti sbagli. Se pensi che son come te, io che stavo senza cellulare, figo, ora potrei averne anche tre. Io che non andavo mai in vacanza, ora prendo la suite a Grand Hotel, bella man. Ma nessuno mi ha aiutato, me lo sono guadagnato con la forza e il coraggio. Se vuoi entrare nel mio mondo, ora paga il pedaggio. Capta il mio messaggio, non me la sto tirando, sto solo raccontando i fatti. Voi ancora disfatti, io ho preso la mia vita sulle spalle, ho fatto i fatti. Nella vita so che non devo mollare mai, non mi fermerò e so che tu lo spererai. Quanti guai ci aspettano davanti, sai, pronta a parare al colpi ma scagliare la prima pietra mai. Nella vita so che non devo mollare mai, non mi fermerò e so che tu lo spererai. Quanti guai ci aspettano davanti, sai, pronta a parare al colpi ma scagliare la prima pietra mai. Ero praticamente spiaccicata a terra, la testa spappolata come un milite caduto in guerra. Ho detto basta, mi ripiglio, io ci muoio qua. Ho preso tutto, ho perso tutti, ho cambiato città. Ripartire da zero, mi sono detta questo. Fabiano me lo ricordava spesso con quel pezzo. Me lo pompavo nelle cuffie e poi piangevo fra. Ho buttato tutto fuori, adesso sono nuova. Con i miei momenti di squilibrio sono un ibrido tra un essere normale e un tipo chiuso in manicomi. Oh, direi tipico di molte donne, ma sai non mi identifico in nessuno stereotipo specifico. Ringrazio che ha il coraggio di stare al mio fianco, col mio caratteraccio mi chiude in un abbraccio. Sa che devo stare sola quando mi sento uno straccio. Va così, ma domani ci vediamo e poi ridiamo un sacco. Nella vita so che non devo mollare mai, non mi fermerò e so che tu lo spererai. Quanti guai sai, pronta a parare al colpi ma scagliare la prima pietra mai. Nella vita so che non devo mollare mai, non mi fermerò e so che tu lo spererai. Quanti guai ci aspettano davanti, sai, pronta a parare al colpi ma scagliare la prima pietra mai.